Prezzi l'alba, le crude ricorde, se non trova merce ne hai pena. Prezzi l'alba, le crude ricorde, se non trova merce, merce ne hai pena. Prezzi l'alba, le crude ritorte, se non trova merce ne hai pena. Sprezzi l'alma, le crude ritorte, se non trova merce ne hai pena. Se non lascia l'amar, se non lascia l'amar.